sarà nell'ombra della sera. Forse la memoria adesso mi sta portando via. Come il buio accenderà le stelle, la luce dei ricordi è un faro che illumina la notte. Solo adesso la storia di una volta scordata è andata via. Tornare a parlare di noi. Scenderà e batterà nel petto, forse è solo mia, puoi sentirla adesso un'altra volta. Siamo qui, capire cosa siamo noi, se forse immaginato solo, oppure qualche volta in volo, un sogno ricorrente avuto, nell'alba si perderà la notte. Sembrerà avvolta in un mistero, la strada ancora è lunga, chi lo sa se trovi il falso oppure il vero. Sentirsi ciechi e soli e poi spiccare un salto nel buio per perdersi ancora una volta, non capire qualcosa di noi, di noi. Resterà forse l'ombra di una sera, adesso questa storia, venire in mente che cos'era. Poi la luce trovata sul cammino, restandomi vicino, accendere adesso le mie notti. Solo adesso capire quella volta, sorride già il mattino, come il sole durare sino a sera. Sento ancora battere nel petto il senso di una volta per portarmi sempre da lei. Ora qui, capire cosa siamo noi, non è di fantasia l'amore, qualcosa che capisci a volo, un sogno ricorrente avuto, poi l'alba nasconderà la notte. Non c'è più il velo di un mistero, la strada è stata lunga ed ora so cos'era il falso ed ora il vero. Non essere più solo e vivere il mio tempo in questa storia. Mi parlerà di lei, racconterà di noi, di noi.